8:38 minuti, un pochettino di ritardo, ma recuperiamo subito per presentare ai TC Teatro a San Lazzaro in via delle Rimembranze 26 lo spettacolo di domani sabato 25 novembre, From Syria Is This Child, uno spettacolo che viene portato a San Lazzaro da Nicola Di Chio e Miriam Selima Fieno, che è qua al telefono con noi, alla quale do il buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito. Grazie a voi, intanto so che siete ben impegnate anche con il viaggio, che è abbastanza lungo fra l'altro, quindi insomma avremo modo di conversare anche già a inizio, si può dire, percorso di spettacolo. Com'è nata questa idea, com'è nato questo motivo di narrazione, From Syria Is This a Child, ci puoi dire qualcosa di più? Sì, allora io e Nicola Di Chio lavoriamo insieme dal 2011 e negli ultimi anni abbiamo deciso di indirizzare il nostro teatro verso questo genere, il teatro documentario, o meglio a costruire, a scavare il nostro solco proprio all'interno di questo genere. I nostri spettacoli quindi sono delle opere ibride che mischiano il linguaggio del teatro, il linguaggio del cinema documentario, del cinema del reale. Io e Nicola partiamo sempre da una ricerca approfondita rispetto alla tematica che scegliamo di raccontare o alla storia che scegliamo di raccontare, quindi studiamo molto, raccogliamo molto materiale di diverso tipo e praticamente poi quello che assiste lo spettatore è una specie, diciamo, di documentario in tempo reale, di film in presa diretta. E in questo caso, insomma, era un po' di anni che lavoravamo sul Mediterraneo, sul tema del Mediterraneo e del Medio Oriente. Io ho origini libiche, ma non solo per questo, proprio perché per noi era importante raccontare di quella parte di mondo. E siamo partiti dalla Libia con uno spettacolo appunto sulla storia della mia famiglia, siamo arrivati in Egitto con uno spettacolo appunto sugli esuli egiziani e siamo poi approdati alla Siria decidendo di raccontare di questo conflitto che è iniziato nel 2011 e che dura tutt'oggi. E l'idea era realmente di creare un'opera che parlasse ai ragazzi, poi in realtà noi lo presentiamo anche in serale, quindi insomma è un'opera per tutte le generazioni, dove sulla scena ci sono due protagonisti che non sono due attori, sono due giovanissimi che hanno deciso di mettere a disposizione la loro storia, di condividere la loro storia personale. C'è Giorgia, che è una ragazzina di 14 anni, che racconta di una guerra molto particolare, una guerra in famiglia, legata alla separazione dei genitori. E c'è Abdo, che è un giovane ragazzo siriano, che racconta invece della guerra nel suo paese. Lui è stato costretto a scappare, è arrivato in Italia che aveva 15-16 anni e quindi i due protagonisti parlano di due separazioni diverse. Giorgia, la separazione dei genitori, e Abdo, la separazione dalla sua terra. Raccontano di due dolori molto diversi ma che a un certo punto si incontrano e lo spettacolo è proprio il racconto delle loro storie. Loro mettono a disposizione il loro materiale e lo condividono con il pubblico e si crea realmente un rito collettivo dove i due protagonisti parlano tra di loro ma parlano anche insomma con la platea. Con due motivi così diversi ma allo stesso tempo che hanno un'univoca realtà che viene sviluppata all'intersezione nell'incontro tra di loro, almeno così il primo commento che mi viene da portare dalle tue parole molto precise. In scena, aggiungo, saranno presenti videocamere e altri dispositivi elettronici, tu già l'hai anticipato. E come sarà questo palcoscenico, Miriam? Sì, sul palco ci sono appunto delle telecamere che lavorano dal vivo e che vengono manovrate dai due protagonisti, telecamere che fungono proprio da lente di ingrandimento sui materiali che Giorgio e Abdo mettono a disposizione, documenti, fotografie, video da cellulari. C'è uno schermo molto grande, ci sono altri due schermi più piccoli, quindi è in realtà veramente uno spettacolo che regala un sacco di stimoli multimediale e come dicevo prima si assiste a un film dal vivo, ecco, sì, diciamo. Con girare un film dal vivo. sì, con la presenza fondamentale degli attori, dei protagonisti, diciamo testimoni in carne ed ossa, che portano avanti la narrazione. Quindi praticamente il video e l'utilizzo del video non è un qualcosa da sfondo, ma è veramente un ulteriore sì. personaggio che dialoga con i due testimoni. Molto particolare, intenso. A seguire, ribadisco, se non l'ho ancora detto, l'incontro con la compagnia, che è una possibilità che ITC nel suo cartellone dà per chi va ad assistere gli spettacoli. Sarà sabato 25 novembre, ovviamente 2023, cioè domani alle ore 21, From Syria Is This a Child. Aggiungo anche alcune note che ho letto. Lo spettacolo ha vinto il premio Young and Kit del 2022 al FIT Festival di Lugano, ha avuto menzione per il premio Scenario Infanzia 2020, insomma vedo che è stato preso con merito e attenzione da una parte giovane per quanto riguarda questa narrazione a teatro. Riconosci in questo, certo, è per tutte e per tutti, però vedo che è molto preso da un'attenzione per infanzia, kids e per i giovani. Ci puoi dire qualcosa di più? Sì, noi siamo proprio partiti con l'idea di parlare ai ragazzi, utilizzando però il linguaggio che io e Nicola utilizziamo sempre nei nostri lavori. Devo dire che ogni volta noi abbiamo l'opportunità spesso di presentarlo sia in matinée per i ragazzi che in serale per gli adulti, e devo dire che la reazione dei ragazzi ogni volta ci sorprende e ci emoziona tantissimo, perché davvero c'è proprio un riscontro potente, cioè un'esplosione in sala, perché c'è questa vicinanza tra i protagonisti e il linguaggio che utilizzano, come dicevo, dei dispositivi elettronici e la giovane platea. Quindi appena dopo lo spettacolo c'è proprio un dialogo che si instaura tra di loro, i ragazzi si avvicinano, ringraziano Giorgia e Abdu per aver messo a disposizione la loro storia. Quindi mi sento di dire veramente che si crea qualcosa di forte e che per noi è un risultato molto importante, no? Perché è come se si ritornasse a parlare anche tra i ragazzi e tra la nostra generazione e quella dei giovanissimi. E ce n'è tanto bisogno. L'occasione è domani alle ore 21, ITC Teatro di San Lazzaro, in via Rimembranze 26, per la precisione, From Syria Is This a Child di Nicola Di Chio e Miriam Selima Fieno, al quale auguro buon viaggio oltre che buona giornata. Vi aspettiamo. Grazie mille, aggiungo solo che lo spettacolo è una produzione del Teatro Menotti sì. di Milano, di Bottega degli Apocrifi di Manfredonia. Bene, buon viaggio e buona giornata. Grazie mille, grazie. Ciao, saluta Nicolò, ciao. O teu suor passeia sobre o meu peito liso, presinto a maré cheia que chega sem aviso para inundar a tua alma, que é feita só de mar, bocas, beijos e ais, a dor que traduzi nos gestos imortais que eu compreendi ao estar dentro de ti. Cansado, barco chega ao cais. Rabih Abou Khalil in questo disco, che vede altri protagonisti come Michel Godard, Luciano Riondini e il cantante Jarrod Gwin, in una produzione della Enya Record. Rabih Abou Khalil, ricordiamo, è uno tra i virtuosi dell'oud, che con una poesia sonora dal Medio Oriente porta visioni ed emozioni veramente molto intense. Oggi abbiamo avuto una playlist che per lunghi tratti ha avuto queste caratteristiche. Per il venerdì 24 novembre il Breakfast Club, che sta volgendo al termine, come ben sapete il venerdì è in scena. collegata anche Viola Balugani in redazione per Arte e Cultura con noi. Lei non solo alla parte tecnica, ma anche alla produzione dei format, ai contatti con i protagonisti, le voci che ascoltate all'interno della prima colazione in diretta. Quindi salutiamo chi lavora per adesso dietro alle quinte con grande passione e abnegazione. Grazie Viola. A breve avremo l'Edipeo enciclopedico, dopodiché Liberi Dentro, rassegna stampa curata da Alfredo Pasquali, poi dalle 11.30 alle 12.30 il Jazz Live, sempre su Radio Città Fujiko. Io vi ringrazio per l'attenzione e per la prima colazione in diretta. L'appuntamento è a lunedì con i magazine e uno speciale sulla mostra dedicata alla Pantera di Gor, la Rossa, Milva. Questo però dopo il weekend, che vi auguro bellissimo. E con un caloroso abbraccio momentaneamente mi congedo a voi dal vostro William Piana. Un buon ascolto. Ciao a tutte, ciao a tutti.